Beh, è stata una proposta di Takà, che come sapete è un festival del turismo responsabile e sostenibile che si tiene da 10 anni. In questo ambito si cerca di dare una visione un po' diversa da quello che è un turismo così classico di quelli che vengono a Bologna per visitare i monumenti e per mangiare, che sostanzialmente è un po' quello che succede. Noi cerchiamo di dare uno sguardo diverso anche proprio per i bolognesi stessi, insomma per chi abita in questa città. E quindi ormai, siccome sono passati più di 40 anni, ci siamo resi conto che in prospettiva ci sono alcune cose che fanno parte della storia di questa città, che quindi era bello riproporre. Quindi guardiamo a questo, come è nato il punk, il tipo di punk che c'è stato a Bologna, che è stato molto diverso da quello che c'è stato nelle altre città. Si ripercorrono quelli che sono stati i nostri luoghi di ritrovo, sia dall'inizio, da partire da quando non avevamo niente, tipo il Disco d'Oro in via Marconi, fino all'isola nel cantiere, dove invece c'è stata una bella fucina di attività culturali, passando dal Pancreas, dall'Osteria dell'Orsa, e senza spoilerare troppo, insomma, sostanzialmente questo. Non diciamo tutti i luoghi, perché altrimenti sennò le persone non vengono, no, ovviamente. So che c'è stata già una grande adesione a questa iniziativa, perché c'è forse voglia di scoprire anche questo lato diverso della città. Anche perché ci sono persone più giovani che queste cose non le conoscono. Questo era un po' il motivo principale, di far conoscere cose che sono state molto importanti ma che erano un po' sepolte. Quando si parla di punk in città si ricorda sempre il concerto, il 1980 dei Clash, ma magari si ricorda meno, come dire, una scena più underground. Secondo te il punk è valorizzato abbastanza a Bologna? Ma direi che comunque si è perso quello che era il punk come lo intendevamo noi, è diventato più qualcosa di un po' più ludico in un certo senso, però è comunque ancora, e questa è un'evoluzione che comunque non dipende, insomma dipende anche dai tempi probabilmente, però io vedo che c'è ancora molto interesse intorno a questo, anzi c'è la proposta di concerti e luoghi è veramente tanta rispetto a quello che avevamo noi ai nostri tempi, forse anche troppa in un certo senso. Tu dicevi il punk come lo intendevamo noi, perché era una sorta di filosofia di vita, no? Sì, per noi era esatto, c'era un'implicazione, filosofia è un termine giusto, insomma era un modo di criticare e allo stesso tempo cercare di costruire qualcosa. Adesso questo per quanto riguarda me, però devo dire che il tour è un po' più ampio, perché la visione è più ampia, perché siamo io, Roberto Colombari, che è l'autore di Tempi Selvaggi, e Cesare Ferioli, che è anche lui ha fatto le grafiche di Tempi Selvaggi, e che comunque rappresentano sia la realtà skinhead che quella, Cesare è stato anche rockabilly, per cui affrontiamo la cosa da diverse sfaccettature, cioè io che rappresento il punk anarco pacifista, però racconteremo cose, aneddoti anche che comunque riguardano un vissuto un po' più nichilista, ecco. C'è ancora posto per questo passaggio? E l'interesse è stato veramente notevole, per cui è sold out, però siccome poi è gratuito magari qualcuno ha rinunciato, quindi io che dire, cioè, ho detto a tutti che non c'era più posto. Però perché comunque dopo non ci si fa sentire, cioè siamo un gruppo troppo, più di 25, quando si parla chi sta dietro non riesce più a sentire niente. L'idea comunque è molto probabile di rifarlo, perché visto questo interesse qui e visto anche comunque la preparazione a cui abbiamo dedicato, e vorrei anche sottolineare che comunque il sabato successivo, il 14, faremo in chiusura di questo agosto una presentazione dei nostri libri, ripeto, Tempi selvaggi e Schiavi in una città più libera del mondo, con un DJ set, e lo faremo al Casalone giù, però non nel covo, lo faremo nello spazio sotto del Casalone verso pomeriggio sera.